dovremmo cominciare ad andare verso le radici del pensiero Aleph. Perché vedete, ciò che conta veramente è interiorizzare non dei concetti e nemmeno delle conoscenze, ma come si produce un certo modo di pensare, che purtroppo ai corsi è difficilissimo trasmettere, ve lo dico proprio, è molto difficile, perché bisogna vedere dove origina. Quindi per capire il pensiero Aleph bisogna andare al livello germinale, qua. Sapete dove escono prime bollicine di pensiero? Quando in aula vi porto queste bolle più grandi, queste qui generalmente sfuggono. Ma la sfida futura sarà quella di coinvolgervi tutti nel pensiero germinale, dove nasce questo pensiero. In modo che, se anche non ci vedessimo mai più, questi pensieri seme lavorerebbero comunque dentro di voi e arriverebbero alle stesse conclusioni. Questa è un po' la sfida, perché è importante che tu, ciascuno di noi, diventi autonomo, cioè libero. Se prendete solo le bolle grandi di pensiero, dipenderete sempre, perché la bolla serve in questo contingente momento, in quest'altro momento. Ma da dove viene sta bolla? Da qua. E se voi comprendete come nascono le bolle grandi da quelle piccine, allora dopo siete liberi, autonomi, finalmente. E allora diventate persone in grado di spostare questo da qui a qui, senza ricorrere più a aiuti a destra e a sinistra. Questo è lo scopo. Cioè lo scopo di Aleph di essere inutile, non servire più a niente. Se dovesse succedere, io sarei persona più felice del mondo, ci sono tante bellissime cose da fare in un mondo dove le persone cominciano a pensare, a non essere più egoiste, centrate su di sé. Siete practitioner master e siete in un percorso. È come foste al terzo, quinto anno di pianoforte. Il diploma viene dopo e il diploma è l'inizio. Poi, come vi ho detto, il cammino è lungo, perché l'essere umano è complesso. Abbiamo creato strati e strati di menzogne, eh? Tanti.